Ja, ich glaube, um den Stellenwert dieser Berichte der regionalen und provinzialen Militärkommandanturen zu klären, müsste man eigentlich erst den Gesamtrahmen bestimmen, um dann die lokalen Besonderheiten herauszuarbeiten. Denn sonst ist es schwer zu sagen, was repräsentativ ist, ob das repräsentativ ist für das gesamte Gebiet oder eben eine Besonderheit der Provinz darstellt. Man müsste es eigentlich immer in Bezug auf das gesamte Gebiet sehen, um dann die lokalen Besonderheiten herausarbeiten zu können. Auf der anderen Seite war natürlich auch dieser Apparat der Militärkommandanturen in der Provinz recht klein, weil die ja ständig ihren Rückbezug hatten zum Zentralapparat in Verona, also zum Apparat des bevollmächtigten Generals, wo ja alle Berichte zusammenliefen und dann immer monatliche Synthesen erstellt wurden, anhand derer man ja eigentlich auch ganz gut feststellen könnte, welchen Stellenwert die jeweilige Provinz im Gesamtrahmen hatte. Und viele der Äußerungen könnte man in allen Berichten wiederfinden, ja, dass das Vertrauen in den deutschen Sieg verloren geht, dass die italienische Bürokratie nicht funktioniert, dass die Berichte nicht in der Exaktheit erstellt werden, in der man sich das erhofft und so weiter. Aber was jetzt gerade die spezielle Situation ist, ist ja durchaus interessant, das zu klären, müsste man jeweils den Anteil der Provinz am Gesamten bestimmen, würde ich sagen. Und das nur als Anmerkung vielleicht zu dem letzten Referat und zu dem Referat von Marco Palla, wollte ich noch sagen. Es hat mich sehr überzeugt, die Aussage, dass eine... mi ha molto convinto l'interpretazione che un'occupazione più diretta non sia stato possibile dato una società moderna molto complessa. Anche l'occupante tedesco aveva bisogno di una struttura amministrativa italiana abbastanza funzionante. Comunque, secondo me c'è uno strato di collaborazione tecnico necessario per poter garantire le funzioni civili amministrativi. D'altro canto c'è uno strato di collaborazione che va oltre e che non consiste solo di fascisti, persone un po' marginalizzate. Quindi c'è tra lo strato amministrativo essenziale per le funzioni civili e fascisti della GNR, delle Brigate Nere, del partito, deve essere uno strato di collaborazione abbastanza massiccio che secondo me dovrebbe essere precisato per strati sociali. Quindi chi aderisce al partito oltre questi personaggi con un passato un po' difficile. Sì, posso soltanto dire alla relazione della signora Guiotto, io ho letto questi rapporti delle Militärkommandantur. Devo dire, è un materiale non di grandissimo interesse, rispecchia una certa mentalità di un normale burocrate tedesco. Non sono fanatici nazionalsocialisti quelli che scrivono questi rapporti, sono militärverwaltungsräte, cioè giuristi, amministratori. La prima intenzione di questi rapporti è quella di Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. La calma, la tranquillità è il primo ordinamento che dobbiamo controllare. E fra tutte queste notizie che magari non riguardano avvenimenti militari, non riguardano avvenimenti della polizia, così tutto quello rimane estraneo. Quello che mi ha impressionato molto in questi rapporti, nella sua diversità fra le diverse province, è l'ascesa della resistenza. E questo viene fuori, io ho letto per esempio, ho scritto anche qualche cosa sulla situazione in Liguria e nel Cuneo, e qui si vede che ancora a novembre, dicembre del 1943, questi osservatori che raccolgono una massa di notizie e li collocano in questi rapporti mensili, dicono: ma c'è la notizia che c'è qualcuno dei banditi che nella montagna, ma non sappiamo niente, qui è tutto tranquillo, non c'è nessun pericolo, ordine pubblico è assicurato. Magari qualche pala telefonica che viene distrutta, qualche nagel sulla strada, qualche chioro sulla strada, qualche lastwagen che è stato bloccato, ma non di più. A gennaio, febbraio, per esempio a Genova o a Cuneo, cominciano i primi attentati, le prime distruzioni, i primi bloccaggi dei treni, del traffico ferroviario e stradale. E poi da marzo, aprile del 1944 comincia il primo allarmismo, e questi osservatori dei Militärkommandanturen diventano nervosi, vedono che l'ordine pubblico sta crollando, e poi c'è un completo allarmismo per esempio a Cuneo, a Genova, da maggio in poi. E già nel giugno del 1944 per esempio a Genova dicono: ma praticamente questi banditi si sono organizzati, abbiamo perso il controllo del territorio nella montagna, e certe interconnessioni per esempio con Livorno sono bloccati per sempre. E a Cuneo è un quadro interessantissimo già dal maggio del 1944, dove dicono: ma siamo quasi isolati, siamo quasi assediati da questa resistenza che adesso controlla quasi tutto il territorio, non delle grandi città, ma della campagna, della montagna, in collina. Così, questo mi pare l'aspetto più interessante che viene fuori da questi rapporti sul livello provinciale. Ma io devo dire che sull'importanza dei rapporti delle Militärkommandanturen ho un'opinione leggermente diversa da quella di Petersen, forse anche per il differente punto di vista, nel senso che se noi consideriamo che per quanto riguarda la situazione economica nelle province, dal punto di vista dell'agricoltura e dell'industria, spesso è una delle fonti più importanti che abbiamo, con i limiti che già sono stati detti, però credo che non possiamo assolutamente prescinderne. Quello che senz'altro va fatto, e che mi pare su questo si sia ancora abbastanza indietro da questo punto di vista, è in fondo riprendere l'indicazione che aveva dato Enzo Collotti alla fine del suo libro, cioè di non soltanto di approfondire, che è di 29 anni fa, tra l'altro, cioè non soltanto di approfondire a livello provinciale queste carte, ma riuscire a intrecciarle con documentazioni di altro genere, che è la cosa che credo possa ancora aprire una serie di percorsi di ricerca utili, come qui si è visto, anche se in modo ancora parziale. Comunque, quello che volevo dire, a parte la questione delle Militärkommandanturen, era più che altro riferito all'intervento di Marco Palla, nel senso che a me pare molto importante la conduzione dell'analisi, come tu hai detto, su un piano che sia sottostante quello governativo centrale, ma che prenda la dimensione amministrativa regionale. Allora, io credo che dalle cose che tu dicevi, se non forzo troppo quello che pensi, possono venire fuori anche delle riflessioni interessanti rispetto al tema guerra civile, che oggi non possiamo affrontare come avremmo voluto con la presenza di Pavone, che però in qualche modo circolava in questo convegno. nel senso che se noi incrociamo una serie di cose che abbiamo sentito nei giorni scorsi, per esempio il fatto che l'RSI non aveva uno dei punti importanti per la sovranità di uno Stato nel XX secolo, cioè il controllo sull'emissione di moneta e il controllo sui flussi valutari internazionali. Questo controllo non ce l'aveva, come abbiamo sentito il primo giorno. Dopodiché vediamo che in realtà esisteva un policentrismo molto spinto a livello di amministrazione, ecco che allora la reale struttura dell'RSI come la reale statualità dell'RSI deve senz'altro essere messa in discussione. Questa cosa ovviamente non deve esimersi dal dire che un conto è il dibattito sulla natura dell'RSI come Stato, un conto è la percezione che entrambi i fronti, repubblichini e partigiani, avevano uno dell'altro. Si tratta di due cose diverse, non a caso il volume di Pavone tratta più che altro questo secondo aspetto, quindi direi che si tratta di due aspetti che vanno tenuti separati e che se potremo approfondire, approfondiremo. Grazie. Prego. Altri che vogliono? Prego. Io ho soltanto una breve domanda al signor Palla. Come si spiega l'altissimo livello di adesione al fascismo proprio nella provincia di Toscana, nella regione di Toscana? Un fatto che mi ha sempre stupito. Come si spiega? Ci sono delle ragioni piuttosto sociali, storiche, oppure di mentalità, angedeutet haben. Sì. Grazie. Altri? Magari un minuto lo rubo anch'io, e forse alla relazione. Ah sì, forse alla relazione del Guiotto è mancata una elencazione che aveva mancata di tempo e di quelli che era lo schema, va bene, vero, costante, va bene, vero, di queste relazioni, dal quale risulta un poco la chiarificazione della diversa importanza che si può attribuire. Il fatto che il movimento di resistenza partigiano venga o non venga registrato, quello dipende evidentemente dalle situazioni diverse. Altra è la situazione della resistenza in Piemonte e in Liguria, altra è la situazione della resistenza in provincia di Belluno, facente parte dell'Alpenvorland, altra è quella di Verona, abbastanza quieta anche perché alimentata costantemente, e altra quella di Vicenza, e allora la mancanza è questa. Ma sul fatto che questi lagerberiste siano importanti, mi pare di poter convenire con la seconda interpretazione, se appena appena leggo, vero, che cosa contengono come elementi sui quali devono essere fornite le informazioni richieste per l'economia, la situazione del mercato monetario e dei pagamenti, la situazione delle banche e degli istituti di credito, l'approvvigionamento della popolazione, trasporti, industria, alimentazione, agricoltura, questioni generali, produzioni, eccetera, eccetera, sono fonti di prima mano. Esatto, va bene, vero, nascono ben da questa mentalità un poco sbrigativa dell'amministrazione militare, ma sono indubbiamente fonti di prima mano e anche di dettaglio che potrebbero consentire poi un quadro, va bene, vero, generale. Per quanto mi permetterei di dire, però, più che sulla relazione Guiotto, che conoscevo perché in parte è stata anche già, va bene, avrò anticipata in una pubblicazione, e dire che ho sentito quella di Marco Pala con grande interesse, è la continuazione di una proposta di lettura della storia che ha già avanzato in altre pubblicazioni, è una lettura su chiave regionale della storia del fascismo, e adesso è portata avanti anche per l'ultimo periodo. E con vivo interesse, anch'io sono convinto che il fascismo è riuscito a evitare queste cerchie regionali perché ha avuto dinanzi il tempo, i 20 anni per superarle, mentre invece la Repubblica Sociale Italiana non l'ha avuto, per cui resta questa aspirazione ad uno Stato centralistico e unitario, e in realtà invece poi vabbè, i 2 anni di tempo, non sono stati 20 mesi, non sono stati sufficienti per arrivare a questo. Una cosa e ho finito, vabbè, forse bisognerebbe vedere, e non so, io non conosco, può darsi che sfondi una porta aperta, e prego di essere istruito, non so se sia stata fatta un'indagine abbastanza approfondita su quello che è stato il comportamento dell'amministrazione pubblica, degli uomini dell'amministrazione pubblica, questi che hanno tirato avanti tranquillamente, prima impiegati del Regno d'Italia, poi impiegati di questi 40 giorni a metà, Badogliani, poi impiegati della Repubblica Sociale Italiana. E ho l'impressione che tutti siano rimasti al loro posto, un poco perché alla fine del mese bisognava pur ritirare lo stipendio e pensare, vero, a non perdere il posto che veniva poi compromesso. Non vedo in chi l'ha lasciato e in chi l'ha tenuto né atteggiamenti eroici in un senso né in un altro. Io che sono, vero, così per principio avverso alla burocrazia, penso però, vabbè, che è proprio il caso di dire che la burocrazia, come in altri casi, ha salvato l'amministrazione pubblica di interesse generale. Tutto è andato avanti, anche qui nella zona delle Prealpi si pagavano gli stipendi, che poi venissero, su rimessa direttamente dalla Repubblica Sociale Italiana o d'altro, non aveva importanza. C'è stata una continuità di fatto che è quello che ha portato poi la situazione fuori dalle secche. Questo è un tema che mi affascina. Ecco, domando scusa, non dovevo intervenire, ma insomma, anche se sono qui, volevo dire. E allora la parola, in ordine, prima a Marco Palla per la risposta. Prego. Io non l'ho fatto. Ma sì, diverse domande, tutte diciamo implicano problemi anche molto, molto complessi. Sono d'accordo che con Lutz Klinkham che non c'è solo lo strato dei collaboratori tecnici e poi una piccola quota di marginali che sono diciamo impiegati per attività violente di intimidazione della popolazione civile, ci sono anche tanti altri strati. E da questo punto di vista però naturalmente è molto importante, credo, tenere presente l'intreccio dell'analisi sociale e di quella del fattore geografico territoriale, per esempio, ma non è solo una risposta diretta, è così un'osservazione, nel blocco di forze che nel periodo 1920-21-22 si salda in Toscana, c'è una componente sociale fondamentale che è data dalla proprietà terriera. Questo non succede nella Toscana del 1943-44. I proprietari terrieri hanno un atteggiamento molto più cauto, definito spesso assenteista dalle fonti fasciste repubblicane, e diciamo molto più attendista nei confronti delle autorità, mentre in alcuni centri industriali, per ragioni oggettive di implicazione con la diciamo economia di guerra, però anche per a volte diciamo fattori soggettivi di partecipazione, ci sono una parte del ceto imprenditoriale toscano che dà un apporto di collaborazione abbastanza diciamo rilevante nei confronti delle autorità tedesche, però a volte saltando la mediazione del partito fascista repubblicano, cioè c'è il caso di industriali indubbiamente collaborazionisti che però trattano direttamente con le autorità tedesche i prezzi, il contingentamento delle materie prime, i trasporti e così via, saltando la mediazione di qualche piccolo impiegato o di qualche marginale che guida in quella località il partito, perché dal punto di vista sociale questo non conta niente. Insomma, è una questione molto molto complessa che naturalmente credo ha bisogno di molta ricerca empirica poi, prima di arrivare a una qualche risposta. Così anche la domanda che faceva la professoressa Priester è molto complicato rispondere, diciamo, in due parole. Direi che esiste nell'Italia del primo dopoguerra, quando nasce il fascismo, una fortissima polarizzazione dei contrasti politici, una radicalizzazione estrema. La regione toscana è una regione dove, come disse Mussolini, si è combattuto, cioè c'è stato uno scontro, in qualche modo, una contrapposizione, una polarizzazione fortissima. I fascisti sono emersi vincitori e hanno fatto pesare però dal punto di vista non solo militare questo successo. Il fascismo toscano ha avuto un peso politico importante perché la leadership, l'elite toscana, diciamo, ha subito guardato non solo alla regione ma anche al centro, ha avuto una qualche capacità di pensare i problemi regionali all'interno di un'ottica meno regionalistica, meno localistica di altre elite fasciste locali. E poi ci sono stati tanti fattori, anche se vogliamo personali, la saldatura delle due famiglie, la famiglia Mussolini e la famiglia Ciano, è il presupposto nepotistico, diciamo, di una promozione politica di uno strato di gerarchi, di alti personaggi del fascismo toscano durante gli anni 30. Questo è così forte, diciamo, questo fatto storico, che sopravvive anche alla rottura di questa solidarietà tra le due famiglie Ciano e Mussolini, e continua anche dopo che al fascismo toscano manca, diciamo, questa leadership che era rappresentata dai due, Costanzo e Galeazzo Ciano, dai due esponenti della famiglia, di una delle famiglie anche economicamente più potenti, diciamo, dell'Italia fascista. Sull'ottica, diciamo, l'importanza dell'ottica regionale e anche dello studio del comportamento dell'amministrazione pubblica, credo sia un tema di grande importanza. Anche qui a livello locale si possono vedere tanti ulteriori elementi di questo comportamento. Le amministrazioni municipali, per esempio, sono datori di lavoro in maniera, diciamo, molto importante in alcune località dove tutta l'economia, diciamo, normale di pace è sconvolta. Assumono lavoratori stagionali per compiti di segreteria, per compiti molto, molto limitati. E qui c'è un intreccio, bisognerebbe vedere punto per punto che tipo di adesioni ci sono, perché la Repubblica Sociale Italiana, non va dimenticato, che introduce un privilegio molto forte nelle assunzioni anche di questi lavoratori dei municipi, dei comuni. Accanto a essere orfano di guerra, c'è una prelazione per le assunzioni per chi è figlio o figlia di squadrista, che è una, diciamo, notazione, diciamo, interessante. E però le amministrazioni sono poi quelle che, diciamo, che portano avanti la routine in qualche modo del lavoro normale. C'è stato, è interessante richiamare anche che naturalmente con l'occupazione tedesca e con l'avvento del neofascismo c'è stato un tentativo limitato di epurazione dei funzionari badogliani. A volte questo tentativo è completamente fallito per la pura e semplice mancanza di uomini capaci di svolgere un certo lavoro. Un ingegnere che deve mandare avanti l'ufficio tecnico del comune di Trento è badogliano, lo impieghiamo, anche il fascista repubblicano che dirige l'amministrazione. Prego. Io sì, cioè, No, infatti sono d'accordo pienamente con quello che mi ha detto Clinca, ma io l'ho fatto per motivi di tempo, quindi restringere chiaramente. Poi sì, anche con quello che mi diceva il dottor Petersen, cioè questi documenti chiaramente sono frutto di la mentalità di chi le scrive è quella di funzionari, quindi è logico, non possiamo trovare notizie che riguardano la vita, diciamo, politica oppure il nazionalsocialismo, oppure, cioè, come dicevo prima, anche se troviamo notizie che riguardano, non so, lo sviluppo dell'attività partigiana, sempre però, a mio avviso, almeno in rapporto con il fatto che disturbavano l'attività economica della zona. Quindi bisogna, però, secondo me, per una ricostruzione, diciamo, una storia economica, se vogliamo anche socio-economica, italiana o regionale, adesso dipende, cioè sono, secondo me, sono utili, direi essenziali, incrociati sempre però, come dicevo anche Mantelli, appunto con altri documenti, anche perché cioè, non sappiamo, almeno per quanto ne so io, ancora da dove questi tedeschi traessero le loro informazioni, anche quelle carattere finanziarie, ci sono, adesso io non ho portato qui, ma ci sono, non so, hai visto anche tu probabilmente, lunghe elencazioni di dati, cifre, anche finanziarie, cioè io non ho mai provato a approfondire finora, però da dove le traevano? Può darsi da fonti italiane probabilmente, e allora sono, capito, ma anche i lavoratori la stessa cosa, insomma, lì bisogna controllare. Chiaramente. D'altra parte, sì, io sono d'accordo anche a approfondire questo discorso dell'utilizzo di questi Lagerberichte, però è difficile farlo in maniera, almeno a mio avviso, in maniera globale. Appunto perché sono, io adesso qui ho un elenco, appunto, me l'ha detto anche già il professor Cossini, di tutti gli aspetti toccati, insomma lì presuppone veramente una persona, neanche Collotti l'ha fatto, insomma, perché veramente si va dal campo, insomma, il comportamento, la mentalità della popolazione, sino alla salute, all'assistenza, quelle cose lì, quindi coprire passando per l'industria, l'agricoltura, poi ecco. Piuttosto sarebbe interessante, io finché ascoltavo Marco Palla, un confronto tra il diverso comportamento delle diverse zone. Cioè, a me è affascinato, ad esempio, che dei tedeschi arrivati qui, che suppongo più di tanto il Veneto non lo conoscessero, siano riusciti a fare distinzione tra Vicenza e Verona, che tutto sommato, a prima vista, erano realtà completamente diverse. Ad esempio, tra Padova e Treviso, io ho visto i documenti anche della militare comandatura di Padova, fanno distinzioni profonde. Cioè, vuol dire che qualcosa, insomma. Ecco, è chiaro, tra la Liguria e il Veneto c'è stata una differenza enorme, tra il Piemonte anche per attività partigiane, insomma, questo si sapeva già. Basta, insomma, direi che questo quanto